è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta e commentare insieme i fatti del giorno, numero verde per le telefonate 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli dei TG, iniziamo con il TG2. Ancora pioggia e allagamenti al nord, situazione critica in Piemonte, Tanaro in piena, sgomberati interi quartieri ad Alessandria, il Po sopra il livello di guardia. La visita del Papa in Abruzzo, questa terra deve risorgere, ha detto Benedetto XVI, ora case più solide, lo dobbiamo ai morti, firmata l'ordinanza sulle abitazioni agibili. In Italia finora 11 casi sospetti, tutti negativi, ha detto il ministro del welfare Sacconi. 4 i malati in Spagna e Scozia, l'OMS ridimensiona il numero dei morti in Messico. Le donne passano 4 anni della loro vita al telefonino, la ricerca di un'università britannica. Ogni singola telefonata privata dura almeno 10 minuti. Va bene, erano i titoli del TG2, niente di straordinario, studio aperto. Maltempo, frane, alluvioni e allagamenti. Situazione difficile in Piemonte e Lombardia. Preoccupa la piena dei fiumi. 6.000 persone costrette a lasciare le case ad Alessandria, nel Pavese. Si cerca un uomo rimasto travolto nel crollo di una palazzina. Neve sulle Alpi, isolati alcuni comuni in Val d'Aosta. La cronaca dei nostri inviati sui luoghi dell'emergenza. Pioggia anche sulla visita del Papa in Abruzzo. Non resterete soli, ha detto il pontefice agli sfollati nelle tendopoli. Ora servono case solide, ha aggiunto. L'Aquila, anche se ferita, tornerà a volare. Il sindaco firma, agibili le prime 307 abitazioni. Febbre suina, il contagio da uomo a uomo porta nuovi casi in Europa, sempre peggio in Messico. Il livello di allarme potrebbe salire ancora, ma l'Italia per ora resiste. Tutti negativi gli 11 casi sospetti. Dramma della gelosia, dopo una lite un giovane di 32 anni sgozza la fidanzata 18enne a Potenza, poi scappa, imbocca l'autosole vicino a Frosinone, tampona un tir e si uccide lanciandosi tra le macchine in corsa. Croceristi contro pirati. Bene, 18:39, 800 24 0024, tra le notizie che si possono commentare oggi, l'ennesima polemica anche sulla febbre suina con l'Istituto Superiore di Sanità, che dice che in Italia ci sono antivirali sufficienti per milioni di persone, e il presidente della Commissione Sanità, l'ex presidente della Commissione Sanità del Senato, Marino, che dice servirebbero solo per il 7% della popolazione. Ma a parte questo, c'è una notizia arrivata nel pomeriggio, già trapelava da qualche giorno, insomma, la candidatura di un personaggio che è diventato molto popolare in televisione, e questo per la politica non è una novità, ma molto popolare recentemente, e non come velina, letteronza, eccetera, anche se qualcuno lo chiama velino, ma per una trasmissione che è quella Ballando sotto le stelle, la gara di danza. Adesso non so se il titolo esatto della trasmissione sia questo. Stiamo parlando di chi? Di Emanuele Filiberto di Savoia. E allora, signori, chi vince Ballando con le stelle lo decidete voi, lo avete già scelto voi. Noi possiamo solamente dire, facciamo comparire il mascherino. Eccolo qua. Siamo pronti per la proclamazione della coppia che voi avete eletto regina dell'edizione di Ballando con le Stelle. Signori, dico per l'ultima volta in questa edizione 2009, vai mascherino, vai contatore! Ed è Emanuele Filiberto, il vincitore di Ballando! E oggi mi propongo giustamente agli elettori come Emanuele Filiberto, sì, si chiama di Savoia, ha dietro di lui una storia, la rispetta, però sa guardare avanti. Emanuele Filiberto di Savoia sarà numero 2 o numero 3 in lista con l'UDC nel nord-ovest, dunque più o meno il Piemonte, la zona delle sue origini. Emanuele Filiberto di Savoia. Ricordiamo nel recente passato del principe una richiesta di risarcimento subito revocata allo Stato italiano per l'esilio, fu in un'intervista rilasciata a Ballarò nel novembre del 2007. Io non la trovo neanche che questa sia una sparata. Io credo che sia da parte del governo un atto, diciamo, dovuto. 260 milioni di risarcimento. Ci ripensò subito dopo, si rese conto di avere detto una stupidaggine e lo sentiamo alle Iene, alle prese con Enrico Lucci, dire sì, ho fatto una stupidaggine, la parola è diversa, sentite. Ho letto che hai detto che la richiesta di risarcimento è stata una stronzata. Sì. È vero? È vero. Ti posso dire una cosa? Perché ci hai messo un anno a capire che è stata una stronzata? Ma l'ho capito subito. Però quando sono venuto lì mica avevi capito. Perché la parola forse stronzata non l'ho detta, ma l'ho sempre pensata. Insomma è stata una stronzata. Sì. Ma tu sei stato stronzo? Se è stata una stronzata ci vuole uno stronzo. Vuoi chiedere scusa? Però chiedo scusa. Per quella stronzata. Per quella stronzata è... Avete sentito? Vabbè, insomma, tutti voi vi potete fare un'idea su Emanuele Filiberto, non solo attraverso queste cose, ma attraverso la storia di Emanuele Filiberto di Savoia, che è anche storia diversa da quella del padre, evidentemente. A proposito di candidature europee, ieri sera l'Infedele, l'ex sindaco, anzi l'attuale sindaco ancora di Bologna, Sergio Cofferati, ha spiegato il perché della sua candidatura. Cosa ha detto? Ha detto, insomma, in Europa non c'è bisogno che si sposti la famiglia. Credo di essere uno dei pochi che ha ancora un rapporto con il suo partito di antico stampo. Di fronte ad una situazione come quella che mi è stata prospettata, ho pensato che questo sacrificio, questo punto d'equilibrio si potesse trovare perché lo caricavo sulle mie spalle, non più su quelle del mio nucleo familiare. Sentite ancora una spiegazione più dettagliata della candidatura di Cofferati, che comunque ha suscitato, come sapete, critiche, perché Cofferati aveva detto datemi del cialtrone se mi vedrete candidato. E non avevo nessuna intenzione di candidarmi, perché non mi sono mai candidato da nessuna parte, ma neanche di accettare candidature. Al segretario del mio partito della Liguria, che mi propose di fare il candidato per le europee e per la Liguria, risposi di no. Poi Veltroni si è dimesso, il Partito Democratico ha accentuato la sua crisi e Dario Franceschini, con molta insistenza e con molto affetto, mi ha chiesto una disponibilità in virtù del fatto che l'impegno che mi si prefigurava è esattamente diverso. Lascia libero il fine settimana, via. Non solo lascia libero il fine settimana, ma semmai sono io che mi sposto e non è un bambino piccolo e non è la mia compagna. Sono convincenti queste spiegazioni, secondo voi, posto che Cofferati debba spiegarsi, naturalmente. Alle 18.44 voglio riproporvi Dara Bignardi e Brodolini Brandolini, perché l'interrogativo, la domanda è questa: è davvero così grave che una conduttrice, un conduttore televisivo, anche radiofonico, qualsiasi tipo di giornalista commetta un errore di questo tipo, oppure sono dettagli, come invece ha detto la stessa Bignardi? Risentite. Cosa leggo dice? Il suo libro, pagina 11. L'hanno scritto Brodolini. Uffa. Il padre dello statuto dei lavoratori. Ma sì, Brodolini. Ma cosa dice? Cosa dice? Ma non sono queste le cose che contano. La cosa che posso conta, dire? Posso dire? Sì. Lei in questo momento ha detto una bestemmia. Oddio. Moltissime mail che mi sono arrivate ieri contestavano il fatto che un giornalista debba sapere chi è Brodolini, perché io ho detto, e potevo anche non dirlo, non sapevo chi era Brodolini, l'ex ministro politico, sindacalista, morto alla fine degli anni 60. È una cosa molto grave, secondo voi? Subito dopo il terremoto il presidente del Senato Schifani ha detto una cosa: i senatori devolveranno un migliaio di euro per l'Abruzzo. Risentite. I capigruppo hanno poco fa convenuto con la proposta da me avanzata di prevedere un contributo di almeno 1.000 euro al senatore, più eventuali somme aggiuntive che il gruppo vorrà mettere a disposizione da destinare ai bambini vittime di questa tragedia. Bene, questo era il presidente del Senato Schifani, il senatore dell'Italia dei Valori Stefano Pedica, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Senatore Pedica, qualcuno va a controllare a che punto siamo con queste donazioni? Secondo me, tra l'altro, la generosità la beneficenza non è che può essere imposta, per carità, però c'è stata una promessa esplicita da parte del Presidente del Senato su proposta dei capigruppo, insomma un'intesa. Poi è evidente che né i capigruppo né il Presidente Schifani possono imporre niente ai singoli senatori. A che punto siamo? Ecco, vorrei marcare questo almeno che ha detto appunto il Presidente Schifani, almeno perché dopo la sua prima visita si è reso conto che quello almeno era giustificabile con un mettete di più, perché la coscienza deve portare ad un sistema leggermente diverso, cioè un parlamentare si doveva sentire nella coscienza di devolvere, come ho fatto io e come hanno fatto altri 5 miei colleghi, l'intero stipendio, l'intero emolumento del mese di aprile, proprio per una disgrazia occorsa nel proprio paese e in una regione. Però lei, mi scusi Pedica, lei ha detto io ho dato tutto il mio stipendio di aprile alla causa dei terremotati d'Abruzzo, insomma per aiutare. È una onlus che ha indicato il Presidente Schifani. L'indicazione era almeno 1000 euro, non era obbligatorio tutto lo stipendio. L'almeno 1000 euro, almeno 1000 euro. Vabbè, lei poi ha fatto una sua scelta, per carità, rispettabile, però non è che può essere imposto a tutti i senatori di dare lo stipendio di aprile all'Abruzzo, no? Visto come sono andato, come stanno andando le cose, credo che sia preferibile appunto che ogni parlamentare appunto faccia un esame di coscienza e dica appunto che cosa può fare con uno stipendio intero una regione come l'Abruzzo e cosa possa fare invece con 1000 euro solo. Ma a prescindere da 1000 euro o a prescindere da 1000 euro dallo stipendio intero, lei fa un'accusa precisa. Per adesso sono arrivati contributi solo da 7 senatori, è così? Per adesso sono arrivati contributi certificati da solo 6 senatori più il Presidente Schifani ovviamente. E i gruppi parlamentari, oggi c'è stata una riunione di gruppo, dei gruppi al Senato, perciò vi do una notizia fresca di poche ore fa, dove appunto ancora i gruppi non hanno devoluto questi famosi 1000 euro a gruppo. So per certo che 2 gruppi parlamentari daranno come gruppo parlamentare uno 10.000 euro e uno 20.000 euro, non dico adesso ancora chi sono questi gruppi, ma vi dico che da un gruppo dove ogni gruppo ha per circa un anno ha finanziamenti che vanno dai 300.000 fino ai 600-700.000 euro l'anno. Le sembra troppo poco. Se devolve 10.000 euro e credo che sia un po' troppo poco, anche perché in coscienza, lo ripeto, ogni senatore se dovesse devolvere come ho fatto io e altri 5 quei 10.000 euro che non gli cambiano la vita sicuramente, ma la possono cambiare per guadagnare un tetto in più oppure un minuto in più a quella popolazione che la regione Abruzzo che vive questo disagio quotidiano, e beh, ecco, su questo io farò riferimento anche a questi gruppi che devolveranno 10 o 20 mila euro, che rappresentano anche lì un altro pezzettino. Insomma, mi faccia capire, secondo lei, dopo le parole di Schifani c'è un colpevole ritardo da parte dei gruppi parlamentari, in questo caso del gruppo del Senato, e in generale da parte dei senatori nel devolvere un tot dai 1000 euro in su? È così? C'è un ritardo colpevole, secondo lei? Questo è il punto? C'è il solito ritardo colpevole delle istituzioni. Perché calcoliamo appunto che sono passate già 3 settimane. A 3 settimane ci sono state solo 6 ufficializzazioni e i gruppi ancora non hanno dato niente. Però come rispondono? Sono parlamentari che ancora non hanno versato. Come rispondono? Cioè magari aspettano di versare queste cifre. Guarda, ad una causa precisa? Rispondono alla solita maniera: ho pensato a titolo personale, ci sto riflettendo, l'ho dati a un amico, l'ho dati alla chiesa, cioè quando dicono queste cose è esattamente il contrario, non le hanno dati. C'è una percezione, io l'ho motivata anche al Presidente Schifani, di tirare fuori una tassa di scopo che almeno obbliga il parlamentare a versare quella quota fissa che gli viene imposta, perché altrimenti... E da chi dovrebbe essere imposta? Da chi dovrebbe essere? Il Parlamento dovrebbe votare un qualcosa del genere? Certo, per una tassa di scopo. Noi l'abbiamo già presentata quando accadde appunto per la Thyssen Group nella passata legislatura. Io l'ho ripresentata appunto per questa legislatura. Mi sembra che la riunione di capigruppo di oggi non ne ha parlato. Speriamo appunto, domani riprenderò la parola in aula e chiederò appunto l'accelerazione di questa tassa imposta, perché la tassa di scopo o viene imposta o altrimenti ho notato che ogni parlamentare in coscienza diventa una persona incosciente. Però mi scusi senatore Pedica, il punto secondo me è un altro. Lei poi naturalmente ha tutto il diritto di fare le accuse che vuole. Ma io non sto facendo accuse. No, lei sta dicendo che è una vergogna il fatto che fino adesso solamente 7 senatori hanno versato 1000 euro o più di 1000 euro. e dunque accusa qualcuno, evidentemente i suoi colleghi al Senato o chi fino adesso latita da questo punto di vista. Ora, io dico una cosa e ripeto lo stesso concetto: se non ci fosse stato l'intervento di Schifani, che a nome del Senato ha promesso questo versamento, in realtà poi la beneficenza, la generosità, il contributo sono cose volontarie. Perché secondo lei i senatori, i deputati hanno più responsabilità rispetto ad un cittadino comune nel versare un obolo per l'Abruzzo? Beh, guardi, noi siamo rappresentanti di quel popolo, siamo rappresentanti, e tanti parlamentari sono rappresentanti del popolo dell'Abruzzo. Allora, dato che noi siamo rappresentanti istituzionali di un paese che si chiama Italia, sì, dove nel paese Italia una regione è stata colpita da un terremoto, credo che abbiamo tutti la necessità e la voglia e la coscienza che ci impone a devolvere quella città. Cioè, secondo lei i parlamentari sono obbligati, tra virgolette, naturalmente obbligati, addirittura dovrebbero essere per legge, a versare 1.000 euro, 2.000, secondo lei no, addirittura uno stipendio intero? Euro, a versare l'intero stipendio. L'intero 1.000 stipendio, addirittura. 1.000 euro diventa appunto, una, come ha detto anche il Presidente Schifani, che si è ricreduto su questa sua richiesta di soli 1.000 euro. Ho sbagliato a chiederne 1.000 dopo aver verificato proprio nella regione Abruzzo quello che è accaduto. Ho capito, la ringrazio molto, la ringrazio molto. Buona serata. Grazie al senatore Pedica, secondo il quale, avete sentito, tutti i senatori, addirittura tutti i deputati, dovrebbero versare l'intero stipendio per l'Abruzzo. Stefano da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io, se possibile, volevo spostare l'attenzione su un discorso più futile rispetto a questo, che è quello della candidatura del Savoia. Sì. Avanti Savoia, insomma, esatto, poi ci divertiremo nei prossimi giorni, ne sentiremo di cotte e di crude, anche perché il posto in lista è alto, i voti poi bisogna prenderli, però se al televoto riballando sotto le stelle, questo è è il titolo, ha preso il 75%, insomma si può capire che la popolarità del principe sembra alta, è già un grande, quasi se la gioca quasi con il nostro Presidente del Consiglio. No, senta, la riflessione immediata è stata comunque di amarezza, nel senso che voglio dire professionisti per l'Europa, insomma. Esatto, cioè qui abbiamo un esercito di attrici, di veline, di gente dello spettacolo che viene mandato avanti. Esercito, non esageriamo, esercito. Ma sì, forse ha ragione, diciamo che numericamente però gli eserciti sono sono più numerosi, insomma. È in crescita, diciamo che è in crescita, l'aliquota è in crescita. Vabbè, lei è uno di quelli che dice, insomma, che ci va a fare Emanuele Filiberto di Savoia, che ha vinto ballando sotto le stelle, e insomma certo non è uno preparatissimo dal punto di vista del Parlamento europeo, eccetera, cioè che ci va a fare in Europa? Ci vada pure se gli offrono l'opportunità. A prendere voti per l'UDC, a questo serve. Ecco, quello la cosa un po' più strana è questa. È un delitto, secondo lei? È una cosa per dire un delitto, cioè una cosa disdicevole il fatto che un partito si affidi a uno che tendenzialmente e teoricamente raccoglie voti? Ma senta, io non vorrei entrare in discussioni proprio politiche, però credo che l'UDC di disdicevole ne abbia fatta una di recente, piuttosto grossa. Che ha fatto? Insomma, la candidatura di Cuffaro è stato. È recente, la candidatura di Cuffaro risale a qualche periodo, epoca fa. All'ultima tornata elettorale, no? Sì, quindi, al Senato, certo. Lei intende la candidatura al Senato di una persona già condannata in primo grado. Sì, al Senato. Quindi diciamo è nulla in confronto a quello di Emanuele Filiberto. Andiamo a sentire subito i titoli del TG3. Pioggia, vento e frane, il Po e del Tenaro in piena, 6.000 persone sgomberate ad Alessandria, un disperso nel Pavese. Febbre suina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pandemia evitabile, ma il mondo si prepara. In Italia negativi tutti i test. Il Papa tra i terremotati d'Abruzzo, ora case solide, lo dobbiamo ai morti. Il sindaco dell'Aquila, agibili 703 abitazioni. Ultimi giorni per le liste europee, l'UDC candida Emanuele Filiberto di Savoia, polemiche nella maggioranza per le veline. Sicurezza intesa nella maggioranza, Maroni avverte, pronto a chiedere la fiducia. Franceschini, diamo voce al Sud, è tradito dal governo. Secondo il Washington Post c'è l'intesa con i creditori di Chrysler, il cambio di sera la firma dell'accordo con Fiat. Saviano al TG3 conferma, andrò via dall'Italia, giù le mani dalla criminalità, della ricostruzione. Vasco Rossi al concerto del 1° maggio, perché dice in esclusiva al TG3 dobbiamo fare di più per i morti sul lavoro, per i diritti, per la solidarietà. Va bene, andiamo a sentire la novità rispetto agli altri titoli. Avete sentito, è Saviano che dice, Roberto Saviano, lo scrittore, che dice andrò via dall'Italia. E dice anche giù le mani dalla ricostruzione, riferendosi alla criminalità. Sky TG24. Maltempo, allerta fiumi, straripa il Tanaro e il Po sopra il livello di guardia. Migliaia di persone evacuate in Piemonte, stato di emergenza nella regione. Il Papa in Abruzzo abbraccia i parenti delle vittime, l'Aquila tornerà a volare. Febbre suina, Sacconi al Senato, controllati 11 casi sospetti, tutti negativi. L'OMS ridimensiona le stime, solo 7 le vittime accertate del virus nel mondo. La paura degli italiani in Messico, a Sky TG24, la testimonianza di un nostro connazionale. DDL Sicurezza, la Lega, se non c'è accordo, pronti a chiedere la fiducia sui CIE. Chrysler, Fiat il 35% delle azioni, accordo raggiunto tra Tesoro USA e creditori. Ricercato per il delitto della fidanzata, Potenza muore gettandosi tra le auto sulla 1. Champions League, spettacolo assicurato stasera nella semifinale Barcellona-Chelsea. Poi dopo sei venuto in Italia e tu stai in politica. Ma lo sai? No, non sono in politica. E come no? Scusa, sei candidato? All'estero. Ma che vuol dire? Però ti sei candidato sì o no? All'estero, sì. Allora mi hai detto una stronzata. No, trovavo che era bello che qualcuno che era rimasto tanto tempo al di fuori dell'Italia e che amava l'Italia proporre idee nuove, perché qua ne avete bisogno. Grazie al cielo, per l'Italia ormai c'è Emanuele Filiberto. Per le idee nuove c'è stai te. Proviamo, lo sai, non l'ho. Non... Vedi, Emanuele Filiberto. Però perché no? Il suo cervello è già in movimento. Oh, già c'hai qualche idea in testa così? Stiamo lavorando. C'è solo da aspettare. Quinto. Voglio sapere solo se c'è qualche idea. Ce ne sono. E anche stavolta, vabbè, non so stronzate, Emanuele, no. Non rimarremo delusi. Dimmi se sono stronzate. No, no, ma tu come ha detto stai? Che non c'ha stronzate in testa. E vabbè, insomma, alla fine non siamo rimasti delusi, perché in realtà con un approccio via via più, se volete, invasivo a livello televisivo, ballando sotto le stelle, una recente visita ai terremotati d'Abruzzo, è andato anche Emanuele Filiberto di Savoia, alla fine è arrivata questa candidatura al Parlamento europeo di un discendente di Casa Savoia per l'UDC. L'UDC perché dice porterà avanti il segretario Cesa, oggi i valori della famiglia, i nostri valori in Europa. Questa, diciamo, la presentazione ufficiale, di cui non ci importa molto, perché le presentazioni ufficiali, come sapete, sono quelle che sono. Più chiesero 260 milioni di risarcimento. Non è una cosa che esce così e non sono soldi chiesti così. Per i danni morali patiti per l'esilio. È un diritto. È un diritto. Per il diritto. Che... Perché Emanuele Filiberto dicesse che era una stronzata. Ci è voluto un anno. Io la dico grossa qui, ma secondo me Luci è il migliore intervistatore d'Italia. Assolutamente il migliore intervistatore d'Italia. 800 24 00 24, l'allarmismo ancora continua di Emanuela Falcetti su Radio Rai la mattina, per carità, poi la trasmissione dura una mezz'oretta, quello che è. Continua a interrogarsi sul fatto se qualcuno ha la febbre cosa deve fare. Ho dei sospetti, penso di avere, ho un po' di tosse e un po' di raffreddore. Non ho nulla, ma mi viene paura. Devo andare dal dottore oppure devo evitare, perché posso eventualmente infettare altre persone nella sala d'attesa? Non c'è un dato anamnestico. Noi possiamo consigliare in questo caso di fare prima una telefonata al medico e poi andare al pronto soccorso, poi andare... Deve andare dal suo medico se ha dei disturbi, così come lo farà. Andiamo dal medico normalmente? In qualsiasi parte dell'anno. No, le dico questo perché ieri ho sentito nei vari telegiornali qualcuno che diceva evitate di andare dal medico, telefonate al vostro medico di famiglia perché evitate di entrare in una sala d'attesa, eventualmente doveste mai essere infetti, evitate di infettare gli altri. Ci deve essere il dato anamnestico. Ma io non lo so se al supermercato, sì, per esempio, ho respirato vicino a un signore messicano. Sì, questo. No, è giusto tranquillizzare, ma è giusto anche dire le cose come stanno. E questa è Emanuela Falcetti, 800 24 0024. Brunetta ancora è tornato sulla questione dei candidati europei e ha detto, ma insomma sono poche o no 50 ore di formazione per le candidabili, quello che ho fatto nei giorni scorsi. Brunetta a Radio Radicale questa mattina. Mi pare che sia stato l'unico partito a aver fatto un corso di formazione totale 30-40 ore a candidabili. Hanno preso. Forse negli altri non ce n'è bisogno, magari. Ma mica tanto, se Davide Sassoli, secondo me, una qualche corso di formazione potrebbe anche farlo, piuttosto che l'avvocatessa di Udine, bravissima, simpatica, ma anch'essa probabilmente, oppure Staino, che probabilmente è bravissimo, eccezionale con le sue vignette, ma probabilmente non sa del triangolo istituzionale europeo, Commissione, Consiglio e Parlamento. E qui Brunetta fa un po' il professorino, perché dice una lezione sul funzionamento dell'Europa, insomma, dovrebbe prenderla anche Sassoli, David Sassoli, che come sapete è capolista nel Centro Italia per il Partito Democratico. Poi però uno si interroga, c'è bisogno davvero di essere molto preparati per fare i parlamentari europei? Borghezio è un europarlamentare della Lega, il quale dice per esempio che l'Europa ci vuole imporre una sorta di dittatura enogastronomica. Ora, di fronte ad un'enormità del genere, uno si potrebbe davvero interrogare se ci sia bisogno di preparazione, insomma se bisogna essere degli scienziati, dei grandi professionisti per fare i parlamentari europei. Sentite. Meno nobile è l'Europa che ci obbliga ad accettare i prodotti lattiero-caseari senza latte fresco, adesso addirittura l'aranciata senza arancia. C'è. E questa è l'Europa. Queste che ci impone modalità anche enogastronomiche che sono totalmente in contrasto con la tradizione dei popoli europei. Questa è una dittatura, lo dobbiamo dire. La dittatura enogastronomica dell'Europa. Adesso, quando un parlamentare europeo dice che l'Europa ci vuole imporre una dittatura in fatto di cibi, insomma, poi uno si domanda, ma primo, che tipo di personale politico abbiamo in Europa in generale? E secondo, poi, insomma, alla fine la differenza tra un Borghezio che va in Europa a fare un certo tipo di battaglie, magari qualcuno ingenuo dal punto di vista politico, acerbo dal punto di vista politico, come potrebbe essere un ex Velina. Qual è la differenza fondamentale? 800 24 0024. Franceschini, leader del Partito Democratico, un po' che non lo facciamo sentire, ieri sera a Porta è tornato a spingere su un argomento che è quello della candidatura di Berlusconi. Ma qual è il leader europeo? Qual è il leader europeo, dice Franceschini, che fa come Berlusconi? In Europa esistono presidenti del Consiglio che si candidano e poi sono costretti comunque a dimettersi dopo un mese? Parlamentari nazionali, presidenti dei consigli dei ministri non possono per legge fare i parlamentari europei. Se sono eletti devono optare entro 30 giorni, quindi devono dimettersi da presidente del consiglio o da parlamentare europeo. Ma voglio capire perché noi italiani dobbiamo essere sempre anomali nella mediocrità, nella furbizia, nell'imbroglio. Ma secondo lei, lo chiedo a lei, posso fare una domanda? Secondo lei Angela Merkel o Sarkozy o Zapatero o Gordon Brown si candiderebbero capolista alle elezioni europee? Di sapendo tutta la loro opinione pubblica, chiedendo le preferenze, chiedendo di scrivere Gordon Brown sulla scheda, sapendo che quella preferenza va direttamente buttata, non dico dove, perché il giorno dopo si deve dimettere. È una questione di serietà. È una questione di serietà. E allora chiudiamo con che cosa? Riproponendovi una delle domande della serata. Insomma, per un conduttore, per un giornalista, lasciamo perdere il conduttore oppure un intervistatore della carta stampata, anche se per l'intervistatore della carta stampata è più facile, diciamo, sfuggire a un errore di questo tipo, a una mancata conoscenza. È più difficile per chi conduce la radio, per chi conduce in televisione. È grave non sapere chi era Giacomo Brodolini. Sentite. Cosa dice? Leggo il suo libro, pagina 11. L'hanno scritto Brodolini. Uffa. Il padre dello statuto dei lavoratori. Ma sì, Brandolini, Brodolini. Ma cosa dai. Dice? Cosa dice? Ma non sono queste le cose che contano. La cosa che posso conta. Posso dire? Sì. Lei in questo momento ha detto una bestemmia. Oddio. Beh, forse il passaggio della Bignardi in cui dice non sono queste le cose che contano, potevamo risparmiarcelo, se lo poteva risparmiare, ma insomma non voglio fare il giudice che sentenzia sull'atteggiamento della Bignardi. Fatelo voi, poi magari aggiungo del mio. Ma è più grave un conduttore, un giornalista che fa un errore o è spinto dai suoi autori a fare un errore di questo tipo, o un parlamentare, per esempio, ricordate tutti, una parlamentare del PDL che qualche giorno fa in una nostra trasmissione non sapeva chi fosse il presidente di Israele. Se le chiedo chi è il presidente di Israele, lei lo sa. Pronto? Sì. Pronto? Se le chiedo il presidente di Israele, per esempio. Il presidente di Israele è stato inquisito, ecco, anche per reati di natura di violenza e successivamente Olmert. È Shimon Peres. Vabbè, ma comunque, guardi, facciamo che è un colpo basso, va. È Shimon Peres il presidente di Israele. Quello era il premier. Perché venne inquisito. Sì, quello era il premier. Adesso c'è Netanyahu che è il premier. Comunque, va bene così. Beh, devo consigliare a Milan di mettere questo stralcio come una sorta di sigla mattutina della trasmissione del mattino, 24 mattino, sarebbe strepitoso. Se non lo fa, lo mandiamo noi tipo in loop per una settimana, per 10 giorni di seguito, oppure negli ultimi 15 giorni delle elezioni, prima delle elezioni in Europa. Ho letto che hai detto che la richiesta di risarcimento è stata una stronzata. Sì. È vero? È vero. Ti posso dire una cosa? Perché ci hai messo un anno a capire che è stata una stronzata? Ma l'ho capito subito. Però quando sono venuto lì mica l'avevi capito. Ma perché la parola forse stronzata non l'ho detta, ma l'ho sempre pensata. Insomma, è stata una stronzata. Sì. Ma tu sei stato stronzo? Sei stata una stronzata, ci vuole uno stronzo. Vuoi chiedere scusa? Però chiedo scusa per quella stronzata. Per quella stronzata. 19.34 800 24 00 24 era naturalmente Enrico Lucci con il principe Emanuele Filiberto, da oggi politico, speriamo se ne possa parlare perché siamo in par condicio, ma insomma ce ne freghiamo, ne parliamo lo stesso, magari lo chiamiamo. Filippo da Trento, buonasera. Sì, pronto, buonasera, salve. Senta, no, io volevo partire dall'intervento della Bignardi con Brunetta. Premetto che trovo la Bignardi una giornalista di caratura, non certamente una giornalista da strapazzo, e mi raccordo a quello che diceva lei prima sul fatto che i politici, non in particolare Brunetta, che reputo un uomo di cultura, però i politici in generale dovrebbero quantomeno assestare all'interno delle aule di Montecitorio qual è il livello di cultura generale prima di dire che è una bestemmia che una giornalista non sappia chi era il padre, a detta di Brunetta, dello Stato. No, Brunetta non ha detto questo, mi scusi. Brunetta ha detto un'altra cosa. È una bestemmia il fatto che la Bignardi da un certo punto ha risposto: vabbè, la stessa cosa, Brodolini, Brandolini, è uguale, non sono queste le cose importanti. Era arrabbiato con questo. Non per il fatto che che dovesse conoscere la Bignardi il nome di Giacomo Brodolini, insomma, chi era Giacomo Brodolini, che è stato un sindacalista e politico italiano. Guardi, per me sarebbe stato anche molto facile il giorno dopo dire: beh sì, anch'io lo sapevo, basta andare su internet, fare Giacomo Brodolini e poi si sa tutto, naturalmente, Wikipedia, eccetera, eccetera. Però io ho tranquillamente ammesso il giorno dopo che io davvero non ricordavo questo nome, quale tipo di influenza avesse avuto Brodolini nella politica italiana, e credo di non essere il solo anche tra gli addetti ai lavori. Certo, chi ha fatto diritto del lavoro, chi ha studiato queste cose, probabilmente conosce il nome di Brodolini e quello che ha contato all'interno nella redazione dello Statuto dei Lavoratori. Certo. No, allora, da quel punto di vista sicuramente avevo frainteso, nel senso che io avevo capito che il ministro avesse appunto riferito che fosse una bestemmia non sapere chi fosse il personaggio, poi aggiunto un altro nominativo. Niente, appunto l'intervento era appunto sul fatto della cultura generale dei nostri politici, che a me sembra siano un sintomo anche della decadenza dei costumi di questi tempi, perché purtroppo non mi trovo d'accordo sul fatto di avere personaggi televisivi, veline, quant'altro. Però mi scusi, da quale episodio, da che cosa lei trae la conseguenza o lo spunto per dire che i nostri politici sono mal preparati, che magari non conoscono la storia, o non conoscono il diritto, non conoscono l'economia? Da che cosa? Non è che si può prendere da un servizio delle Iene, per carità, cioè, non, con tutto il rispetto per le Iene, ma... No, a parte che concordo con lei su Enrico Luzzi. Un attimo solo, Emanuele Filiberto di Savoia. 7 anni, l'erede di casa Savoia spiega di sapere che il suo percorso potrebbe essere accompagnato dalle polemiche che ancora oggi ci sono sulla storia della sua famiglia, ma i giudizi vanno rimessi agli storici, dice l'UDC, che per Strasburgo conferma anche Gianni Rivera e Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita nella lista Centro Italia. Ha chiuso le liste anche la sinistra. Va bene. Allora Filippo diceva? Sì, no, le stavo dicendo, io a parte che concordo con lei su Enrico Lucci, che sia un grande intervistatore, per carità, però non è certamente la barra sulla quale taro il livello della preparazione dei politici, ma lo stesso Brunetta, che ribadisco è un uomo secondo me di cultura, si appoggia a volte, e parlo a livello mio territoriale, si appoggia a volte su fatti storici o fatti, come diceva lei, fa un po' il dottorino snocciolando numeri, ad esempio in merito alle regioni autonomiste. Ho notato che ci sono stati degli strafalcioni storici anche portati dagli stessi, ma non solo. Per rimanere nell'ambito della sua trasmissione, proprio ieri il dottor Brunetta ha risposto alla Bignardi, quando lei ha mandato in onda un pezzo, ha risposto che i politici, cioè le veline cosiddette, hanno fatto un corso di 50 ore. E adesso ha detto 30-40. Vabbè, quello là però. 30-40. Sì, vabbè, quello è insomma, non è un errore. Insomma, si dice 50 un po' per esagerare, poi alla fine in un'altra intervista si dice 30-40, ma qui non si tratta di strafalcioni. Sono 50 ore pari a un corso universitario. Sì, ho capito, ma non è uno strafalcione quello. Quella è una esagerazione di Brunetta, che ha detto 50 ore alla Bignardi, oggi ha detto 30-40. Insomma, un po' si decidesse pure lui. No, per carità. Grazie Filippo. Grazie, andiamo a Brescia. Antonella, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, innanzitutto complimenti della trasmissione, nonostante insomma l'attesa per l'intervento. Comunque, ascolti, io volevo esprimere così anche il parere sull'intervista della Bignardi al ministro Brunetta. Peraltro anche per me la Bignardi è una bravissima intervistatrice, però mi ha un po' sinceramente delusa, cioè non doveva, secondo me, farsi trovare così impreparata, nel senso che ha invitato questo ministro e presentato un suo libro, perché lei è solita fare così, però di questo libro secondo me aveva letto ben poco. Ecco, davanti a questo io un pochino inorridisco. Secondo me il giornalista che fa delle interviste di un certo livello, come vorrebbe far sembrare lei, deve arrivare lì, mi dispiace, va preparato con le conoscenze. E poi questa espressione, ma sì, il nome, ma se non è Brodolino è Brodoletto, cioè insomma non mi è piaciuta proprio il modo di banalizzare, ecco, questo ho capito. Antonella, però io contesto il fatto che insomma, non è che uno possa diventare all'improvviso il più grande conoscitore della funzione pubblica italiana o dei meccanismi del sindacalismo o di altre cose per fare un'intervista. Non è questo il punto. Certamente c'è stato un errore commesso, se vogliamo, dal team della Bignardi sul nome, che è stato riportato male, Brandolini invece di Brodolini, punto. Insomma, secondo me non bisogna nemmeno fare troppa polemica. Certo, quando la Bignardi risponde e dice beh, poi è la stessa cosa, lì forse non ha tenuto conto della suscettibilità su questo punto e ha offerto un'arma a Brunetta. Va bene, ma non è molto importante. Stefano da Genova, buonasera. Ah, riprendiamo, sì, con Stefano, sì, ci eravamo sentiti prima. Stefano, sì, che voleva dire? Sì. Magari una conclusione su... Conclusione su Emanuele Filiberto di Savoia. Sì, bellissimo, perché lei ha detto che Cesa, se non ho capito male, certo che porterà mi pare i valori della famiglia, no? Sì, così ha detto. Allora auguriamoci che non abbia preso dal padre perché se ci ricordiamo quelle intercettazioni lì, la famiglia era molto allargata, fin troppo, ecco, quindi cerchiamo, magari ha preso dalla madre che forse è una persona un po' più, diciamo, normale. Ma vabbè, adesso voglio dire, perché prendersela col padre? Poi no, non è che le colpe eventuali dei figli, dei padri, si debbano trasmettere necessariamente ai figli. Ma per carità, ma va bene tutto, guardi che... No, ma basta essere espliciti, insomma, non è che va là per... i valori dell'UDC, della famiglia, queste sono le cose che si dicono ufficialmente perché bisogna dirle. È diventato una persona, è probabilmente una persona visibile, riconoscibile, non so quanto popolare, anche il televoto della trasmissione televisiva, quella sul ballo, evidentemente ha certificato che è un personaggio che può raccogliere dei consensi e viene candidato per quello. Sicuramente così siamo, viviamo. Ma insomma, Sgarbi società... perché sarebbe stato candidato per l'UDC, poi non lo è stato, se non per raccogliere voti? Non si può dire che Sgarbi sia... Siamo in una società dove l'apparenza è tanto, forse non è, grazie a Dio, non è tutto, ma è tanto. Sì. E quindi è giusto anche... ragionare in questi termini. Io ho persino l'impressione che questo momento, per esempio, del Presidente del Consiglio, ci sia quasi una figura da Superman che affascina, cioè questo uomo che riesce a essere da tutte le parti, non ne parlo né bene né male, vorrei proprio... colpisce la sua dinamicità, la sua forma, il suo sorriso, e sono tutti punti che si accumulano persino nei telegiornali. Io ho l'impressione che quando danno la parola ai qui po' qua di turno che fanno la loro marcano il loro punto di vista sulla notizia, si ha la sensazione che ultimamente comunque si ricerchino delle persone un po' più eleganti, dei visi, certamente un eloquio, e certamente insomma un qualcosa che va sempre. Stefano, quante dietrologie pure sull'apparizione dei volti politici in televisione. Nei telegiornali vediamo una serie di facce, di testo, ormai da anni, qualche miglioramento dal punto di vista grafico, a un certo punto il TG1 si inventa nota politica, eccetera, eccetera, ma insomma poi la sostanza è quella. La ringrazio, abbiamo diversi ascoltatori in linea come al solito: Antonio da Lecce, Giorgio da Brescia, Riccardo dalla provincia di Bergamo, Alberto dalla provincia di Vicenza, Stefano da Genova, l'abbiamo già ascoltato. Però sulla questione Bignardi e non solo, Bignardi, Brunetta e non solo, David Parenzo, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao David. Ciao. Giornalista, conduttore di una trasmissione che quando posso seguo, quando arrivo a casa in tempo. Grazie. Che è Iceberg su Tele Lombardia e che è un talk show politico diverso dagli altri, perché insomma non ha l'obbligo della televisione, della grande televisione nazionale, certo, dei grandi media nazionali, dunque si può permettere anche l'irriverenza spesso. Possiamo anche sbagliare. Si può sbagliare. Allora, a proposito di errori, anche da altre parti si sbaglia, non è che non si sbaglia. Però noi magari, essendo più piccoli, da noi l'errore passa più sotto traccia. Può darsi, anche se poi i blob ci sono ormai ovunque. A proposito, certo, sei stato blobbato qualche volta? Più di qualche volta. Avete citato prima Borghezio, ma insomma noi siamo una fucina di blob per Borghezio e per Ghezzi. E certo, perché poi spesso ci sono politici, soprattutto, che gravitano in Lombardia, che hanno come la Lombardia come punto di riferimento, ospiti di Iceberg. Vabbè, certo, lasciamo Iceberg e per andare a un'altra questione. Ho fatto una domanda prima: ma è davvero così grave l'errore che ha fatto Daria Bignardi? Lo chiedo naturalmente a uno che fa le interviste, che intervista i politici, che può commettere degli errori. L'errore di Daria Bignardi quando confonde Brandolini con Brodolini, in realtà non lo confonde, c'era scritto sul foglio evidentemente Brandolini e non Brodolini, perché così qualcuno deve avere scritto alla Bignardi, no? Che dici? E lì magari, sai, è stata anche tradita un po' dall'emozione, però l'errore c'è. Daria è brava, bravissima, fammi fare un po' il democristiano, cane non mangia cane, quindi tra giornalisti non si dovrebbe parlare male più di tanto. Però l'errore un po' c'è, insomma, cioè, diciamolo, intanto Giacomo Brodolini non è mai stato così famoso come in questo momento. Esatto, quindi, io tra l'altro io riconosco tranquillamente, il giorno dopo l'ho fatto, sarebbe stato facile dire lo conosco, basta andare su internet, ma io davvero non sapevo chi fosse. Anche perché tutti noi, io per primo, che ho fatto legge, però associo lo Studio dei diritti del lavoro lavorato vicino Giugni, esatto, ad esempio. Esatto, esatto. Non lo avrei associato automaticamente a Brodolini. Certo è che se tu sei in un colloquio faccia a faccia con un personaggio, e se il personaggio è Brunetta, che si sa, insomma, essere uno che ti fa le pulci a chiunque, Pignolo, sì, poi con i giornalisti, insomma, non è molto cattivello, cioè, suscettibile. Il tuo libro è lì, sì, lì l'errore non è più di tanto consentito. Quindi noi ora ci auspichiamo una vendetta da parte di Enrico Lucci, che vada a fare le pulci a Brunetta. Quindi sarà Lucci sarà il vendicatore della Bignardi. Ecco, Lucci ancora non è andato da Brunetta, perché secondo me sarebbe uno scontro tra titani. No, epocale. L'errore però indubbiamente c'è, anche perché Brunetta lì ha ragione quando a un certo punto ha detto: ma come, qui avete 15 persone che lavorano e non sapete scrivere Brodolini in modo corretto? Ma lui ha detto 40, per l'esattamente. Fa sempre delle iperbole, esagera sempre. Però poi il dato c'è, io ho tre persone che lavorano alla mia trasmissione Iceberg, quindi non ne ho 15, ne ho 3. Quindi posso permettermi di sbagliare, ma cerco di non sbagliare, e alle volte sbaglio. E lì non si, però non si può sbagliare, indubbiamente è un po' più grave sbagliare. Tra l'altro, secondo me, nell'osservazione di Brunetta, che a un certo punto dice qui lei ha 40 assistenti, 40 collaboratori, c'era anche una piccola critica alla pletora di persone che lavorano in Rai, dipendenti pubblici. Cioè, assegnato a porta aperta, perché voglio senza portiere, perché voglio dire, tutti gli ascoltatori hanno detto: ma come? Ma per fare un'intervista ci vogliono 15, 20, 30 redattori, sicuramente più di qualche ascoltatore lo ha rilevato. E un po' sarebbe come se Piero Angela facesse un'intervista, che so io, a Rita Levi Montalcini, e non conoscesse la questione della scoperta del fattore di crescita, no? Cioè, sì, ma questo forse un po'. Lì in realtà qualcuno deve aver scritto per carità, poi alla fine la responsabilità è sempre di chi conduce, di chi fa le domande. Deve aver scritto sul foglio di Dario Bignardi Brandolini invece di Brodolini. Secondo me l'errore è stato nella risposta della Bignardi, quando dice: sì, è la stessa cosa, non Brodolini, fa differenza. No, quello non si può dire, è la stessa cosa, quello si può dire. Brandolini, lì ho sbagliato, fai un sorrisetto. Sì, certo. Poi dire che è antipatico Brunetta era divertente, va bene. Però l'errore, cioè, ecco, Lucia Annunziata, ad esempio, non l'avrebbe mai fatto. Dopodiché bisogna ringraziare la Bignardi e Brunetta, perché hanno fatto conoscere a milioni di italiani chi è il mitico Giacomo Brodolini, che David Parenzo sapeva tutto di Brandolini. Dimmi la verità. Devo essere sincero, l'avevo sentito nominare di sicuro, cioè non era uno di quei nomi quando uno fa chi è questo? Chi è Brodolini? Lì, no, l'avevo sentito nominare. Certo, se uno mi dice statuto e diritti del lavoratore, io come prima risposta dico Gino Giugni, non dico Brodolini. Da oggi, grazie anche all'errore della Bignardi, dirò Brodolini sempre. Uno dei padri dello statuto del lavoratore. Uno dei padri dello statuto del lavoratore. Perché poi ieri qualcuno in trasmissione si è offeso: che ha detto Brunetta, non è vero, Gino Giugni, si sono unite. Un dibattito interessante da chiedere allora a Brunetta: il ruolo di Giugni e Brodolini nella stesura dello statuto dei diritti del lavoratore. Questo sarebbe interessante da capire. So quanto interessante per gli ascoltatori. No, noiosissimo. Allora, voglio chiedere a Parenzo un'altra cosa, prendo spunto dalla sua presenza di questa sera qui alla Zanzara, per la notizia del giorno. Adesso non esageriamo, la notizia del giorno non è quella, magari c'è gente preoccupata da tante altre cose, ed è quella sulla candidatura di Emanuele Filiberto di Savoia, che è un... fantastico. È fantastico, diciamo la verità. Secondo me è nata dopo Ballando sotto le stelle. Io lo dico qui, prima l'UDC aveva dei dubbi, 75 per non so quanti voti di preferenza abbia preso quella sera vincendo il programma. A un certo punto Casini si deve essere convinto, anche se oggi non era presente alla conferenza stampa, questo forse vuol dire qualcosa. Insomma, ha candidato il principe che una volta disse: voglio 260 milioni dallo Stato italiano, poi disse che era una stronzata. Sì, no, è una notizia veramente fantastica e merita l'attenzione che tu giustamente gli stai dando. C'è di più però, è vero che le colpe dei padri non ricadono sui figli. Certo che il padre non è un grande esempio dell'Unione di Centro. Ah no, non c'è dubbio. Cioè, il padre che ha avuto quel piccolo processino, poi per carità, io sono stragarantista su Vutko, mille punti di domanda, eccetera. Però, insomma, sai, non è proprio un grande esempio di uomo che tiene alla famiglia, la casa Savoia in generale, insomma, non è che in Italia sia poi amatissima. Dopodiché, però, siccome ci sono le preferenze, a differenza delle liste bloccate, e gli elettori dell'UDC decideranno se mandarlo in Europa oppure no. Vuoi vedere che magari andando in Europa impara anche qualcosa di più? Cioè, lì alla conferenza stampa io sentito la parola, lo danno quasi per scontato: porterò in Europa i valori dell'UDC, insomma, secondo di vista. Siamo tutti con lui? Ma non lo so, sono... È curioso, diciamo che la cosa è curiosa. Non è l'unica cosa curiosa di queste liste, perché voglio dire, poi ci scopriremo di nomi andando a spulciarli nei prossimi giorni, secondo me ne scopriremo quelle più tristi, quelle più tristi che non fanno discutere nessuno se non qualcuno all'interno del partito, sono quelle del Partito Democratico, perché vogliamo mettere l'interesse che suscita a livello mediatico, e non do un giudizio con questo, la candidatura di Luigi Berlinguer con la candidatura di Emanuele Filiberto di Savoia. Stavo per dirlo, non c'è dubbio, è un grande, è un capolavoro questo che ha fatto Franceschini, quindi vabbè, questo sai. Vedremo. Grazie Davide, vedremo. Grazie. Bocca al lupo a Filiberto, grazie e buona viva possibile. I Savoia. Avanti, sempre, Savoia. Avanti Savoia. Savoia, scusa. Con i Savoia in Europa, è uno slogan meraviglioso. Con i Savoia in Europa. Chi l'avrebbe mai detto? È l'Italia. Ti rendi conto, Emanuele Filiberto di Savoia al Parlamento Europeo, insomma, fino a pochi anni fa era lì in esilio, che veniva intervistato da Vespa da lontano, eccetera. Vabbè. Era meglio a quelli che il calcio, però forse sì. Juventino era forse sì, come Idris era meglio da coso, come Juventino. Idris era poi meglio, ha fatto tutto sto casino per venire in Italia e adesso vuole andare in Europa, anche lui è originale. però vabbè ma lo sai che quelli che sono in Europa in realtà poi alla fine sono sempre in Italia, insomma, discutono sempre di politica italiana, non è che discutono di Europa, anche questo è vero. Grazie, buona serata. Voleva tornare a vivere in Italia, è tornato e adesso va andare a Bruxelles e a Strasburgo. Ma poi, tra l'altro, città noiosissima Strasburgo, tra l'altro. Poi nei prossimi giorni riprenderemo tutte le comparsate televisive di Emanuele Filiberto di Savoia, se saranno divertenti. Ti ringrazio, grazie a David Parenzo. Grazie. 19:53. Dove andiamo? Antonio da Lecce, eccoci qui. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Più che altro una domanda, ma di fatto non era stato lo stesso Presidente del Consiglio a giustificare che era logico che i partiti scegliessero i candidati all'interno delle liste per le elezioni europee, visto che c'era bisogno di mandare dei tecnici, degli specialisti, degli esperti nei vari settori l'Unione Europea delega? Bravo Antonio, guardi, è una cosa che abbiamo fatto ascoltare nei giorni scorsi, nella discussione che c'è stata sul cambiare o no la legge elettorale in Europa e farla diventare più o meno simile a quella che c'è in Italia per il Parlamento italiano, cioè con le liste bloccate, dunque senza preferenze, con lo sbarramento, poi lo sbarramento è stato fatto, Berlusconi a un certo punto disse, vogliamo che siano i partiti a decidere sostanzialmente chi mandare in Europa, perché c'è bisogno di professionisti, di grandi professionisti che conoscono i dossier, dobbiamo mandare in Europa gente preparata da questo punto di vista. Intendeva preparata come già preparata oppure preparata da preparare come vuole fare Brunetta con le scuole, così? Punto interrogativo. Le liste che sono state preparate, qualcosa non mi torna. Punto numero due. Sì, poi alla fine Berlusconi farà quasi delle liste bloccate, intendiamoci. Poi un'altra cosa, banalizzare il discorso che a queste signorine, signore, quant'altro, o a questi signori verrà fatto un corso di formazione. Con tutto il rispetto per i corsi di formazione, in Italia si fanno corsi di formazione per estetisti, per pizzaioli, per quant'altro, non è banalizzare anche il ruolo di un parlamentare europeo? E per quanto riguarda Emanuele Filiberto, mi permetto solo di ricordare una battuta di Crozza. Emanuele Filiberto aveva chiesto 260 milioni di euro perché loro sono andati in esilio, e noi che siamo rimasti in Italia quanti ne avremmo dovuti chiedere di rimborso? Battuta della sera? No, Antonio, no, per carità, non me la voglio prendere con lei, non è che tutti possono essere a livello di Crozza, appunto, suo Emanuele Filiberto di Savoia, che lei ha citato, Antonio, e che io faccio risentire, eccolo qui. Cari italiani, li avete già trovati i miei soldini? Non chiediamo tanto, solo 260 milioni di euro. Mio papà vuole fare tante belle case del popolo, così ci mettiamo le popolane e mio padre se le fa tutte, soprattutto. Mio bisnonno ha fatto l'Italia, mio papà si fa le italiane, dunque c'è una logica. Soprattutto, prima di tutto, innanzitutto, dopo tutto, 260 milioni sono esentasse. Figurati se uno viene dalla Svizzera per pagare le tasse in Italia. Quando vivevo là pensavo che IRPEF volesse dire imposta reale per Emanuele Filiberto. A me lo Stato italiano ha tolto i 30 anni di vita. È per questo che noi prendiamo un indennizzo. Ho dovuto vivere 30 anni in Svizzera, tra tutte quelle orrende carte di credito, tutti quegli insopportabili aperitivi, con tutte quelle ragazze invadenti. Non ce n'era nemmeno una normale. Erano tutte fighe. Vabbè, questo era Crozza, insomma, Filiberto, che ricordava una cosa: a un certo punto nella polemica su questi 260 milioni di euro, Emanuele Filiberto cosa dice? Dice: beh, ma non è che li vogliamo per noi questi soldi perché abbiamo subito l'esilio. A un certo punto dice: io non parlo bene l'italiano perché sono stato all'estero, sono stato costretto a stare all'estero. Dice: no, noi li vogliamo dare in beneficenza per costruire le case popolari a Napoli, se non sbaglio, disse. Ma sentiamo. Quello che voglio dire è che se si guadagna, quello che si guadagna andrà interamente in una fondazione e servirà giustamente agli italiani che ne hanno bisogno. Costruiremo, se si può, delle case popolari, faremo delle borse di studio, andranno concretamente agli italiani che ne hanno bisogno, e sicuramente quello che dico, saranno spesi meglio che quello come oggi sta spendendo il governo italiano con quello che riceve. E via, insomma, meglio come li spendiamo noi, gli ex reali, che come il governo italiano, lo Stato italiano spende i suoi soldi. Questi 260 milioni, a un certo punto ci costruiamo le case popolari, le borse di studio, poi a un certo punto tutto questo crolla quando uno si rende conto di aver detto una stupidaggine, e davanti a Lucci, anzi prima di Lucci, niente, una stupidaggine, anzi una stronzata, disse esattamente Emanuele Filiberto, oggi candidato per UDC, titoli del TG5. Il Papa in auto in Abruzzo per il maltempo: ammiro il vostro coraggio, non resterete soli, ora case e chiese solide, lo dobbiamo alle vittime. Il Tanaro esonda ad Asti ed Alessandria, evacuate e poi fate rientrare 5.000 persone, il Po sotto osservazione, pioggia e vento forte in tutta Italia. Febbre suina, secondo l'OMS solo 7 in Messico i decessi imputabili al virus, ma l'allerta resta alta, Berlusconi dalla Polonia, nessun pericolo in Italia, attivo un numero verde. Ricercato per l'omicidio della fidanzata, fugge e si schianta in autostrada, poi in stato confusionale si getta tra le auto in corsa e muore. Test pilota contro l'obesità per 1.000 bambini delle scuole di Torino. Una macchinetta registrerà i loro movimenti per un anno per aiutarli a fare più attività fisica. Un filmato del KGB su Massimo D'Alema, dipinto come revisionista e antisovietico, ma è solo uno scherzo degli amici su YouTube per il suo 60° compleanno. Bene, dopo il TG5 andiamo a sentire il TG1. Il Papa Pellegrino in Abruzzo: vorrei abbracciarvi uno ad uno. Questa terra deve rinascere con case e chiese belle e solide. Paura per i fiumi in Piemonte, frane e alluvioni, 6.000 evacuati ad Alessandria, ma il peggio è passato, un disperso nel pavese. Febbre suina, Organizzazione Mondiale Sanità, pandemia è evitabile, ma l'allerta resti alta, Berlusconi, in Italia nessun caso. Fiat Chrysler, 2 giorni per l'accordo, il Washington Post: c'è l'intesa tra Tesoro e banche sul debito dell'azienda di Detroit. Dopo un incidente muore, forse suicida sulla 1, era ricercato per l'omicidio della fidanzata 18enne a Potenza. Parla Marta, salvata dalle macerie dopo 22 ore all'Aquila: chiamavo le mie 3 amiche, poi non le ho sentite più, ora sono i miei angeli. Va bene, andiamo a sentire dalla provincia di Bari Antonio. Sì. Buonasera, dica. Allora, sì, no, io volevo esprimere la mia indignazione per le candidature, sicuramente per quella di Emanuele Filiberto. Lei è indignato per le candidature? Io non lo sono, naturalmente, perché il volume della sua radio è alto, però se lo abbassa è meglio. Sì. Eccoci. Pronto? Così la sentiamo, sì, chiara e forte. Le dicevo, sicuramente indignazione per le candidature. Quali quella, candidature? Lei è indignato per quali? Sicuramente di Emanuele Filiberto. E ma perché è indignato? Cosa la indigna? Allora, le spiego, ancora di più per le candidature delle veline, perché io non credo... Ma ancora che non le conosciamo queste candidature, non sono uscite quelle ufficiali, così abbiamo parlato della possibilità che siano candidati... Abbiamo qualche esperienza al Parlamento italiano, quindi non dubito che... Vabbè, insomma, ci saranno così. Le veline, ecco. Le veline con Berlusconi. La mia indignazione la esprimo non tanto perché credo che si debba andare in Parlamento preparati, altrimenti avremmo un Parlamento di tecnocrati, e non credo che questo sia necessario, sì, ma perché penso che sia espressione di potere assoluto, nel senso che la possibilità di candidare chi si vuole a prescindere da tutto e da tutti, perché forse la candidatura di Emanuele Filiberto può essere giustificata da un effetto mediatico che l'UDC avrà, ma quello di alcune delle candidate, quali ex Grande Fratello eccetera, sono a mio parere una semplice espressione di potere di chi decide chi deve stare in un determinato posto, fregandosene altamente del valore che una candidatura ha. Le faccio presente che fino a prova contraria e fino a che non scopriremo che Berlusconi sta facendo delle liste bloccate lo stesso, c'è una piccola differenza, che codeste persone che forse saranno candidate, lei le chiama veline, ex grandi fratelli, eccetera, eccetera, ormai racchiuse tutte in una stessa categoria, i voti li debbano prendere, e per andare in Europa in circoscrizioni così ampie bisogna prendere migliaia e migliaia di voti, primo. Secondo, dipende dalla posizione che si ha nelle liste. Non c'entra niente la posizione nelle liste, perché bisogna prendere voti, lì non è che arriva in primo alcuni che... in alcuni collegi si fa quanti voti hai preso, sei arrivato quarto, quinto nella tua lista, quanti parlamentari quella lista esprimerà e porti in Europa, dipende da quanti voti hai preso, semplicemente da questo. Seconda osservazione, lei parla di potere assoluto, no? Cioè è espressione di un potere assoluto da parte del segretario, del capo, di candidare anche, non so, il proprio usciere, il proprio autista, diciamo. E le faccio presente che, disdicevole o no questa pratica, anche all'interno del Partito Democratico alle elezioni politiche dell'anno scorso è successo qualcosa di simile, perché è stata candidata, sono stati candidati portaborse, bracci destri, chiamiamoli così, anche segretari di qualcuno, persone assolutamente sconosciute che non avevano nessuna esperienza politica, presi così, diciamo, dalla cosiddetta società civile, senza nessun merito politico particolare, se non magari una conoscenza diretta con il segretario. Ma io credo che qui ci sia un po' più di sfrontatezza, se mi permette. Cioè, secondo lei la candidatura eventuale di, non lo so, di Barbara Matera, annunciatrice televisiva, è comunque peggio di una laureata o come Marianna Madia? Non so, le faccio un esempio di una persona che fu candidata da Veltroni l'anno scorso. Cioè è peggio comunque perché ha lavorato in televisione, perché fa l'annunciatrice, invece l'altra almeno è laureata. Insomma, perché, mi dica qual è la differenza. Perché assolutamente, perché a chi la candida non importa assolutamente del fatto che questo faccia clamore e crei polemiche, ma lo fa comunque, a prescindere da quello che è l'effetto mediatico della candidatura. La candidatura di Emanuele Filiberto può avere un effetto perché lei ne sta parlando, i telegiornali ne parlano, l'UDC che non ha tanto spazio, io sono assolutamente contrario a quella candidatura, però potrebbe avere un senso. Candidare una persona che crea solo polemiche senza portare effetti positivi dal punto di vista mediatico è espressione di potere, tra virgolette. Cioè, secondo lei Berlusconi si sta dando la zappa sui piedi perché crea solo polemiche? Può permettersi, ritiene di poterselo permettere, questo è il punto, perché gli italiani non si indignano abbastanza. Perché secondo lei vuole candidare queste persone che provengono dal mondo dello spettacolo? Non voglio entrare nel merito, scenderei in una polemica che è frequente sui giornali, ma non credo che sia neanche quello. Quello di cui si parla frequentemente, cioè, il fatto che sono le sue frequentazioni, sono sue amichette, eccetera, eccetera. Non è tanto quello che mi interessa, peraltro sarebbe offensivo nei confronti delle persone che probabilmente sono persone valide, perché in sé non mi interessano. Infatti non sto contestando il fatto che siano candidate queste persone, sto contestando il fatto che si possa, senza nessun pudore, candidarle e metterle lì, fregandosene altamente di quello che è l'effetto che queste candidature può provocare. Magari lei si sbaglia, l'effetto tra gli addetti ai lavori è pessimo, invece nell'elettorato è positivo, non lo so. Probabilmente sì, se il calcolo può essere questo, ma io ho il diritto di indignarmi. Sì, no, ma per carità, nessuno glielo contesta, nemmeno io, si figuri. Ma più che altro è questo, ripeto, è l'espressione del potere. Quando lei dice che il PD candida Luigi Berlinguer e questo non fa notizia, in un paese normale ma magari dovrebbe essere il contrario, insomma, questo è il punto. Non so se da queste cose si possa giudicare la normalità o la normalità di un paese, però certamente da questo punto di vista fanno meno rumore le candidature all'interno del Partito Democratico, quello che dicevo prima a Parenzo. La ringrazio, la 7, abbiamo i titoli, sentiamo. Nubi, fragi, vento, neve, tutta l'Italia flagellata dal maltempo. Stato di emergenza in Piemonte, ad Alessandria evacuate 6.000 persone. Rischio idrogeologico in Lombardia. Nel Pavese si cerca ancora un disperso nel crollo di una palazzina. Nuova influenza, nessun paese sembra più immune dal rischio contagio, mentre dilaga la psicosi. Ma la pandemia è evitabile, fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Messico, dove le vittime sono finora 152, l'epidemia sarebbe in calo. In Italia 11 casi sospetti, tutti i test sono però risultati negativi. Ora case solide lo dobbiamo ai morti, lo ha detto il Papa in Abruzzo visitando le località devastate dal terremoto. La gioia della gente ad Onna, la commozione del pontefice davanti alla casa dello studente. Il sindaco dell'Aquila firma l'autorizzazione di agibilità per le prime 307 abitazioni. E da ultimo, pensate a vincere piuttosto che a parlare. Durissima strigliata di John Elkann alla sua Juve, mentre all'esterno i tifosi contestano la squadra. E sul futuro di Ranieri il bilancio lo faremo a fine stagione. Va bene, alle 20:10 pubblicità, poi c'è una notizia che arriva dall'Italia, ma si riferisce alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Addirittura un atleta azzurro è risultato positivo all'antidoping nei nuovi test disposti dal Comitato Olimpico Internazionale per le Olimpiadi di Pechino 2008. Oltre all'italiano, trovati positivi altri 6 atleti. Dunque, una notizia che Lanza rilancia in grande stile: un atleta azzurro è risultato positivo all'antidoping. Ma non credevo ci fossero test addirittura a mesi di distanza. Ci sono moltissimi messaggi. Reagan, presidente americano, frutto di potere assoluto, e poi è stato uno dei migliori presidenti del secolo scorso. Bisognerebbe avere meno pregiudizi. Filippo da Venezia. Beh, insomma, adesso paragonare Reagan con attori, attrici, mi sembra esagerato. Nelle liste Berlusconi ha messo il suo cavallo, Mario da Napoli, riferendosi a Caligola. E altri messaggi ancora. Dove andiamo a parare? Andiamo a Napoli. Andrea, buonasera. Buonasera, salve. Complimenti per la trasmissione, quando posso vi seguo perché è sempre, insomma, interessante percepire, insomma, che si dibatta di cose importanti piuttosto, insomma, le solite stupidaggini che giornalmente siamo un po' costretti a subire. Niente, intervengo per esprimermi riguardo alla questione di dare a Bignardi, se potevo. Prego, prego. E niente, volevo dire, insomma, che ritengo comunque piuttosto, un termine un po' pesante, indecente, l'intervista di Daria Bignardi. Tengo a precisare ho sempre apprezzato la Bignardi, ho sempre poco apprezzato Brunetta, ma in quel caso non bisogna, cioè per questo caso vorrei fare un discorso, come dire, imparziale, cioè per quello che ho visto e sentito. Per me una persona come Bignardi che fa un'intervista e non è preparata sull'argomento, penso che fa uno scivolone pesante. Però mi scusi, non preparata sull'argomento, qui si sta parlando solo di una cosa, cioè di un nome riportato male evidentemente nel testo che aveva sotto gli occhi la Bignardi nelle domande. Effetti, guardi, che per tutta l'intervista si è letta questa cosa, insomma, che in effetti la Bignardi fosse poco preparata, cioè si è percepita chiaramente questa cosa. No, non lo so, bisogna vedere con che occhi si guarda quello che è accaduto. No, ma anche non mi sembrava un'intervista, come dire, sul bilancio di Brunetta come ministro della funzione pubblica, in cui bisognava no, conoscere i numeri, le cose. Si puntava più all'aspetto, se vogliamo, del Brunetta personaggio. Insomma, poi ognuno fa le interviste che vuole, insomma. Ma indubbiamente, però mi consenta che, cioè, Brunetta attualmente è uno dei personaggi più da tenere in considerazione, soprattutto sul, voglio dire. Vabbè, il punto è che lei fa simpatia a Brunetta e le sta antipatica alla Bignardi. No, a Andrea. Me, anzi, l'ho tenuto a precisare, a me non sta antipatica alla Bignardi, anzi, viceversa, a me forse sta antipatica. Vabbè, allora Brunetta. È un fan di Brunetta, no? Al contrario, nemmeno. Ma che, anzi, cioè, al contrario, vabbè, però sono io che ho avuto dei pregiudizi nei suoi confronti, mi perdoni. Sì, ma no, la prego, no, pregiudizi no, perché, cioè, voglio dire, io nonostante avessi pregiudizi, però ho guardato la cosa molto in maniera imparziale, a me non è piaciuta, insomma. E poi Brunetta è un'occasione, cioè uno che vuole cambiare le cose. Noi questi personaggi, cioè, li dobbiamo. Ma occasione per fare cosa? Ma insomma, per capire questa. Per sfrugugliarlo un po', insomma, per fargli anche un po' le pulci, diciamo, no? Guardi, sicuramente, voglio dire. È quello l'intento di un'intervista in quel tipo di trasmissione. Non è che bisogna fare il terzo grado, non è come in mezz'ora di Luce Annunziata, in cui c'è un ritmo incalzante anche su dati di fatto. Cioè, è un'intervista, diciamo, molto più leggera quella là, no? Non per questo meno nobile, voglio dire, no? Ma guardi, io penso che sia stata un'occasione mancata in quelli, cioè tu intervisti un brunetta qualunque, professore universitario, chi se ne frega, ma nel momento in cui tu stai intervistando brunetta, ministro che sta facendo delle riforme importanti, cioè brunetta persona, chi se ne frega, cioè, beh, Andrea, però scusi, chi se ne frega, vabbè, secondo lei avere di fronte brunetta c'è un copione da rispettare, che è quello dell'intervista seriosa, allora a che punto è la riforma della pubblica amministrazione, i fannulloni, eccetera eccetera. La Bignani ha scelto un approccio diverso. Poi è successo l'affair Brodolini-Brandolini. Eccoci qua, Paolo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo farle notare, sicuramente a lei come giornalista molto attento non è sfuggito, il verbo che ha usato Emanuele Filiberto in quella intervista quando ha commentato la sua richiesta di rimborso. Se ci sarà da guadagnare, quello che si guadagnerà verrà usato per. Allora mi pongo una piccola domanda. No, da guadagnare però, mi scusi, da guadagnare nella causa che voleva fare allo Stato italiano. No, lei è un giornalista attento. Presti attenzione a quello che le dico. In francese gagner è portare a casa, è vincere. Quindi può essere un'interpretazione vincere la causa, ma anche portarsi a casa. Quello che mi fa più specie... Beh, scusi, sono... che differenza c'è? Beh, insomma, c'è una certa differenza. E i soldi sono sempre quelli... La famiglia Savoia, purtroppo per loro, mi dispiace, ma è quello che hanno dimostrato nella loro storia, almeno questa parte della famiglia Savoia. No, non ho capito bene, lui dice portare a casa, se ci sarà da portare a casa qualcosa, questo dice, adesso non ricordo bene. Se ci sarà da guadagnare, quello che verrà guadagnato verrà usato per. Vabbè, ho capito, se ci sarà da guadagnare si intende evidentemente, siccome si sta parlando della causa che volevano intentare allo Stato italiano, se la causa sarà vinta, insomma. La sua interpretazione maliziosa qual è invece? Non ho capito. Lo è, ma per gli atteggiamenti, per un pochino la storia anche del padre di questo ragazzo, che purtroppo con l'Italia ha poco a che vedere, perché purtroppo ha poco a che vedere, conosce poco dell'Italia, sicuramente è stato penalizzato dal vivere lontano. Quello che mi fa un pochino più specie è la sua candidatura da parte di una persona che si pone un pochino al di sopra delle parti, come Casini, che ha tempestato l'Italia di manifesti elettorali o pseudo manifesti elettorali. Smettetela di litigare. Non dimentichiamo che siamo un paese dove abbiamo eletto delle pornostar, abbiamo fatto delle cose che, insomma, un pochino da criticare. Mica l'ha fatta leggere Casini le pornostar, però, mi scusi. No, però ripeto. È nella storia delle nostre elezioni, nella storia dei nostri politici. Quindi non meravigliamoci tanto se Berlusconi propone delle veline, propone delle letterine, propone delle signorine che magari fanno tutt'altro nella loro vita e che purtroppo temo non possano portare un grande valore aggiunto al sistema Italia a livello Europa, a livello di rappresentanza europea. Va bene, temo va bene. Che questo sia un pochino uno specchio del nostro sistema che non è piacevole, non è bello. Basta aprire un giornale e vediamo veramente delle notizie orrende tutti i giorni. Sentire un telegiornale è un fatto comunque tragico. E beh, che però c'entra comunque, questo, scusi, che c'entra questo con le candidature alle europee? No? Non capisco. Fanno parte di un sistema, ormai di questo sistema che sta andando sempre più degradandosi. Degradandosi. È un degrado continuo. Va bene, d'accordo Paolo, la ringrazio. Dove andiamo? Renato, provincia di Viterbo. Ah, buonasera Cruciani. Buonasera. Ancora Brodolini Bignardi. Sì. Io sono molto arrabbiato con la Bignardi e sono sostanzialmente con Brunetta, anche se non sono un fan sfegatato di Brunetta, e anche mi consente un pochino deluso da lei perché non conoscevo Brodolini? Sì. Vabbè, chiedo perché bene, Brodolini le chiedo, è stata una le grande chiedo persona bene. Io ricordo ancora queste immagini di quest'uomo che stava morendo di cancro del polmone, ministro del lavoro, e in occasione di uno sciopero, adesso non ricordo a che proposito, stava lì con gli operai sotto la neve. Questa immagine, certamente io ho 61 anni, quindi è probabile che lei è molto più giovane, ma questa immagine non mi ha mai abbandonato. E così vedere gente che avrebbe il dovere, non lei, ma la Bignardi che doveva essere dovata, che non ricordava, non dico il personaggio, ma addirittura sbaglio il nome, mi ha, devo dire, demoralizzato, ecco, demoralizzato. Perché secondo lei i giornalisti anche di una certa generazione, diciamo quarantenni, anche se non si occupano di diritto del lavoro, di cose di questo tipo, avrebbero l'obbligo di conoscere chi era Brodolini o no? Beh, Brodolini non è stato un personaggio di serie B. No, non ho detto, non voglio dare patenti serie A, serie B, classifiche, eccetera. Però secondo lei c'è l'obbligo di conoscere Brodolini, altrimenti si è ignoranti. Io credo, però, scusi, a questo, per carità, io ho ammesso di non conoscere Brodolini, di non ricordare chi fosse. Il nome chiaramente mi diceva qualcosa, ma non voglio qui fare il fare trucchi. Ma poi guardi, non è tanto stato il non aver ricordato il nome, ma aver scherzato sulla... Quello sì, su quello le do ragione. Non si può dire questo non è importante. Era fatto benissimo, ovviamente, a dire... Questa è una bestemmia. No, ma su questo le do ragione. Però, ripeto, chi in maniera trasparente, esplicita, chiara, dice io non lo conoscevo, non sapevo chi fosse, non sapevo che ruolo avesse avuto nella politica, nella storia italiana, secondo me non è che poi bisogna, la patente ignorante. Insomma, non credo che sia così. No, ma ignorante sicuramente nel senso che non sa. Beh, no, io la mia era solamente così, l'espressione di una delusione rispetto... Mi dispiace di averla delusa, naturalmente poi mi sono subito informato su Chiara Brodolini e forse ha ragione Parenzo, se c'è un merito è quello da parte della Bignardi e anche forse di Brunetti di avere riportato in auge una figura che insomma non è tra le più citate, no? dalla pubblicistica negli ultimi anni, o sbaglio, forse perché è morto nel 69 precocemente, non c'è dubbio, no? Sì, è morto in maniera anche abbastanza tragica. Sì, lo so, lo ricordava Brunetti. La ringrazio molto. Buonasera. Renato Michele Buonuomo, presidente di Legambiente Campania, buonasera. Buonasera. Allora, oggi l'Unità ha un titolo, come al solito, a tutta pagina, titolo principale, copertina del giornale, l'ecoballa, la beffa dell'inceneritore di Acerra, inaugurato dal Premier un mese fa, ancora non funziona, eppure lui dice di sì, Legambiente presto rifiuti di nuovo in strada. Ora partiamo dall'inizio. Buonomo, allora, qui l'Unità sostiene, dati alla mano, con testimonianze, eccetera, eccetera, anche col vostro conforto, diciamo, tra virgolette, che in realtà questo inceneritore inaugurato in pompa magna, diciamo, da Berlusconi insieme a Bertolaso qualche settimana fa, in realtà ancora non funziona nulla, non c'è un operaio, non c'è un'ecoballa smaltita, è così oppure no? Secondo noi sì, guardi, allora, su un sito ufficiale del sottosegretariato, che è www.emergenzarifiuticampania.it, sì, si può collegare ad una webcam. E io mi sono collegato alla numero 3, sì, che dovrebbe tenere sotto controllo questo impianto. Bene, io mi sono collegato a volte alle 3 di notte, alle 6 del mattino, no? Durante il giorno, non ho visto mai un camion, no? Perché delle persone che abitano in zona mi hanno confermato questa cosa, io insomma, semplicemente ho fatto uno più uno e ho pensato probabilmente non funziona ancora. Guardi, ecco, Berlusconi ha detto ieri a Napoli che l'inceneritore di Acerra funziona benissimo. Ora voglio dire, lei sa benissimo che una volta c'è il, diciamo, il lancio ufficiale, poi una cosa come un inceneritore di quel tipo ha bisogno di un certo periodo per mettersi in moto in maniera definitiva. Però voi sostenete che in realtà non c'è niente, c'è proprio fermo, bloccato, immobile. Guardi, o no? Allora, quello che noi vogliamo dire che sicuramente quell'impianto oggi non contribuisce alla soluzione del problema. Ma questo è un altro discorso, però. Lei dice non è ancora a regime tutta, diciamo, la... Esatto. Infatti ho affermato questo nella mia intervista, ho affermato che quell'impianto non è a regime e non lo sarà prima di un anno. No? Sulle tre linee, perché è evidente. Sì, ho capito, però funziona qualcosa oggi o no? Non smaltisce rifiuti. E che fa? Probabilmente staranno facendo collaudi. Allora, io in questo ambito, no, di discorso ho detto che l'impianto non è in funzione, cioè non svolge la funzione di smaltimento dei rifiuti. Smaltire dei rifiuti. Ho capito. Guardi, noi siamo stati sempre responsabili. Io non sono mai stato, come presidente delle Legambiente Campania, né noi siamo stati davanti all'inceneritore per dire no, sì, anche se riteniamo che il conflitto contro quell'inceneritore noi l'abbiamo sostenuto da un altro punto di vista. Vabbè, ma non è qui non stiamo parlando di inceneritore sì o inceneritore no. Benissimo. Stiamo dicendo, quello sarebbe un discorso lunghissimo naturalmente, stiamo dicendo, voi sostenete che al contrario di quello che dice Berlusconi, che l'inceneritore di Acerra funziona benissimo, in realtà ancora, diciamo, sono in corso i collaudi e ancora, sì, diciamo, il compito principale, che è quello di smaltire i rifiuti, non viene diciamo svolto. Diciamo che i rifiuti al momento vanno in discarica. Allora, Buonuomo, un'altra domanda è questa. Sì. Voi sostenete, qui rischiate di fare la figura di Santoro che ha detto mi metto in mutande se Berlusconi risolve il problema entro una certa data, sostenete in autunno torneranno i rifiuti nelle strade. Con una certa sicurezza, da quello che leggo dall'Unità. Non è un azzardo dire una cosa di questo tipo? Allora, pure lì io ho affermato c'è il rischio che i rifiuti restino per strada, perché noi siamo su di noi pende una spada di Damocle, vale a dire l'apertura dell'ennesima discarica, la discarica di Terzigno nel Parco Nazionale del Vesuvio. Sì, sì. Ora, noi non condividiamo quella scelta. Se, se questa non apre? Se questo non apre, il rischio è che i rifiuti restino per strada nel prossimo autunno. Cioè se solamente discarica... se non apre la discarica di Terzigno. Poiché quella è una discarica in un parco nazionale, sì. No? Allora noi abbiamo detto delle due l'una. O dichiariamo quell'area non più parco nazionale, sì. oppure ci apriamo una discarica, oppure aprite, non aprite la discarica lì, trovate altre soluzioni. Mm. Perché che senso ha che lo Stato, lo stesso Stato che ha dichiarato quell'area... Quindi per pregi o per situazioni di delicatezza sociale, geografica, ambientale, è un'area parco, poi ne fa lo trasforma in una mega discarica. Ma perché ci sarà bisogno di aprire un'altra discarica sicuramente? Assolutamente, in campagna c'è bisogno di aprire discariche. Perché ancora il ciclo, diciamo, ideale non è avviato, ho capito. Dunque non è un augurio in autunno torneranno i rifiuti dalle strade, no. Speriamo. Guardi, questo lo testimoniano anni di impegno, documenti, centinaia di interviste. Va bene, va bene. Adesso sul funzionamento dell'inceneritore di Acerra, cosa succede? Continueremo a indagare, perché voi dite non c'è un'oncia di rifiuto smaltita. Berlusconi dice, almeno da quello che si legge, sta funzionando benissimo. Magari si riferisce ai collaudi. Vedremo. TG2 titoli. In Italia finora 11 casi sospetti, tutti negativi. Non corriamo pericoli, ha detto Berlusconi. L'OMS ridimensiona il numero dei morti in Messico. La pandemia è evitabile. La visita del Papa in Abruzzo. Questa terra deve risorgere, ha detto Benedetto XVI. Ora case più solide lo dobbiamo ai morti. Firmata l'ordinanza sulle abitazioni agibili. Ancora pioggia e allagamenti al nord, situazione critica in Piemonte, Tanaro in piena, sgomberati interi quartieri di Alessandria, il Po sopra il livello di guardia. Accordo tra il Tesoro americano e le banche per il via libera al matrimonio tra Fiat e Chrysler, al Lingotto il 35% della compagnia americana, la maggioranza i sindacati. Le donne passano 4 anni della loro vita al telefonino, il risultato di una ricerca britannica. Ogni singola telefonata privata dura almeno 10 minuti. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Pisa, Lavinia, buonasera. Buonasera. Dica. Io ho aspettato molto e... Mi scusi. Credo che siano stati bruciati da quello che ho sentito. Nessun argomento viene bruciato. L'argomento per cui mi sono presentata era la solita Bignardi. Però poi nel sentire la trasmissione ho sentito qualcosa anche di stimolante sulle candidature. E forse i due argomenti potrebbero anche collegarsi. Prego. Dal mio punto di vista. Allora, io vorrei limitarmi a dire due fatti che di per sé dovrebbero far pensare. La signora Bignardi, per la quale io non ho né antipatia né simpatia, anzi direi simpatia, perché ho sempre seguito, una persona molto garbata, molto attenta, però la prima esperienza della signora Bignardi è stata la direzione del Grande Fratello. La direzione, insomma. No, la direzione. Presentò il primo Grande Fratello. Presentò il Grande Fratello, fu la conduttrice del Grande Fratello. Non so quale funzione sia. No, è presentatrice del Grande Fratello, ma comunque insomma, non è un delitto, non è un delitto. No, assolutamente non è un delitto, ma infatti, specialmente la prima punta, la prima edizione, anzi fu seguita da molti, io stessa qualche volta l'ho guardata, sì, abbastanza sì. Però lei dice come fa poi a criticare l'eventuale candidatura delle veline di personaggi televisivi, no, questo? Se mi fa parlare un attimo, prego, non prego. Vorrei portare via troppo tempo. La signora Bignardi dopo, giustamente, e io l'ho sempre apprezzata, ha progredito nella sua carriera, quindi staccandosi dalla prima esperienza e facendo altre cose come intervistatrice. Facendo soprattutto quella trasmissione sulla 7, che tutti credo abbiano visto, in cui era bravissima, devo dire. Però le sue esperienze di interviste culturali erano essenzialmente indirizzate, quando si parlava di scrittori o di artisti, diciamo a scrittori di cose leggere, spesso di non sempre erano persone conosciute, insomma spesso si trattava di romanzetti rosa, cioè cose molto leggere, molto garbate, che piacevano. I politici spesso venivano intervistati anche con la loro complicità, devo dire, perché può far comodo, venivano intervistati sul piano della, delle esperienze personali, del gossip, dunque... e le cose andavano benissimo. Ora, l'altro giorno però, l'altra sera, la signora Bignardi ha voluto intervistare il ministro Brunetta su un libro, che non era un romanzetto rosa, quindi secondo me, però... non mi permetto di giudicare, ma dico la mia modestissima impressione, una giornalista seria o doveva evitare l'argomento, oppure documentarsi un minimo. Cioè, il rigore professionale secondo me esige questo, altrimenti si parla d'altro, che va benissimo. Però voler parlare... Infatti si parlava d'altro, si parlava del fatto che Brunetta era frequentò la fondazione... La fondazione, ma questa esperienza Brunetta l'ha inserita nel suo libro e la signora Bignardi... No, guardi, io non è che sono qui a giustificare gli errori, non è quello il punto. Sto dicendo che se errore c'è stato è stato quello di dire è uguale Brodolini, Brandolini, eccetera eccetera. Però insomma non necessariamente l'intervistatore, l'intervistatrice in questo caso di Brunetta deve conoscere chi era Brandolini. Io quello dico. Secondo me se un intervistatore, un giornalista, perché lei si presenta in quel caso non come presentatore, no, ma come giornalista, beh certo. Secondo me ha il dovere professionale di documentarsi un minimo. Però vorrei aggiungere una cosa integrante. Sì, prego. Io sono abbastanza vecchia e io Brodolini me lo ricordo benissimo. Cioè, va bene, ho capito, va bene, meglio per lei. Io non ho mai fatto politica, non occorre essere esperti di diritto del lavoro per sapere chi era Brodolini. Era un socialista che forse appunto il gioco politico ha oscurato, però era una personalità. E comunque sia, se questa esperienza era nel libro di Brunetta, secondo me, visto che lei lo citava... Ho capito. Cioè, questa è la mia impressione. Bisognava conoscerlo, vabbè, siccome è stato citato una persona che conduce un programma importante in cui intervista una persona importante tra virgolette, naturalmente deve conoscere assolutamente chi era Brodolini e comunque non storpiare il nome. Anzi, forse lei dice storpiare il nome può succedere, però poi bisogna sapere chi è Brodolini, che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, insomma qualche cosa sul ruolo che ha avuto. La ringrazio, Lavinia, il ragionamento è interessante. Donatella, sempre da Pisa. Sì, più o meno ripeto le stesse cose che ha detto la signora, con più simpatia per la Bignardi, un po', perché secondo me non è necessario sapere chi fosse Brodolini, anzi una persona giovane può anche tranquillamente ignorarlo. Chi invece, dal momento che lo cita, doveva informarsi, ecco. Poteva evitare di citarlo. Ecco. Se fai una citazione devi sapere di cosa parli. Quello può darsi, sì. Se uno lo cita, lo mette in campo, diciamo, poi a quel punto meglio. Poi non è che ci vuole molto, poi tra l'altro. Esatto, anch'io appena ho letto, ho sentito della polemica, sono andato lì su internet, ho digitato Giacomo Brodolini e è uscito tutto, insomma, non ci voleva. Poi se uno non lo vuol sapere, insomma, va bene lo stesso, insomma. E invece rispondere uno fa il giornalista e fa una citazione, sì. Si deve informare. E invece rispondere beh, la stessa cosa, non è quella la cosa fondamentale, no, quello è uno scivolone, può capitare a tutti. Certo, certo. Grazie Donatella, buona serata. Giuseppe, sempre da Pisa, bene, molti ascoltatori da Pisa. Giuseppe da Pisa non c'è più. Michele da Milano, eccoci qui. Salve Cruciani, a me dispiace di essere arrivato così in ritardo perché so che abbiamo i minuti contati. Vada pure. Niente, volevo innanzitutto prendere le distanze da queste persone che mi hanno preceduto che puntano il dito sulla Bignardi. Io penso che Brunetta ci ha fatto veramente una magra figura. E perché? Perché da una persona del genere io mi aspetto sempre tanta diplomazia, comunque vada. Non lo so, io sono figlio di un capocantiere, di gente che ha sempre lavorato. Io stesso lavoro da una vita. E che c'entra questo? C'entra che ancora non mi aspetto che le sorti dell'Italia finiscano nelle mani di persone che veramente ci sanno fare. Invece però mi scusi Michele, adesso lei è partito dalla reazione che ha avuto Brunetta dopo l'uscita dalla Bignardi, insomma nel colloquio con la Bignardi, al fatto che mi aspetto che le persone che governano l'Italia siano le persone del fare, di cose concrete. Sono le due cose un po' sono in contrasto. No, ma le spiego, ma sto un po' correndo perché penso. No, ma non deve correre, lei mi deve dire, lei dopo aver sentito, aver visto magari il litigio tra Brunetta e la Bignardi, dice ha confermato il suo giudizio su Brunetta o no? Sì, esatto, perché vede, per la situazione che stiamo correndo noi in Italia, per i tempi che io vivo in mezzo a persone che fanno veramente fatica a mangiare, non a tirare la fine del mese, allora? Fanno fatica a mangiare. E Brunetta va a fare le pulci ai dipendenti pubblici e ci sta anche, ma io partirei veramente dall'alto. Io mi aspetto da queste persone che all'unanimità si abbassano lo stipendio, mi aspetto siamo, Michele, mi scusi, d'accordo, su quello possiamo discutere. Secondo lei Brunetta non fa bene il ministro, dovrebbe fare di più, ma che c'entra con l'intervista con la Bignardi? Mi spieghi che c'entra? Io sto dicendo che comunicazione interrotta, ci sentiamo domani. Cade proprio nel momento in cui dobbiamo chiudere la trasmissione. Non sentiamo più, Michele, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30, anche con lei se vuole. Ciao. La Zanzara.